Uno spazio che inizia adesso alle 21.45 dagli 87.9 in modulazione di frequenza. 25 giugno 2018. Andremo avanti per circa una novantina di minuti con selezioni che spaziano dal gothic, dal neofolk e tanta tanta elettronica. 0649 1750 il contatto telefonico, sito internet www.ondarossa.info, sia per lo streaming sia per leggere le notizie e le corrispondenze contenute nel sito stesso. Per le comunicazioni mediante posta elettronica ondarossa@ondarossa.info, strettamente collegato a questo spazio e a questa trasmissione, c'è una pagina Facebook che è Prove Tecniche di Trasmissione /Disorder. Qui, oltre che sul sito, domani compariranno playlist podcast. Un saluto a Alessandra qui da Roma, Maya dall'Argentina, Anna Maria da Fabriano nelle Marche. Anna Maria Di Stefano da Stahl Syndrome, storico progetto Dark Wave italiano. Immancabile Luciano FM, anche lui musicista qui di Roma, Riccardo da Taranto. Dunque andiamo un po' a pescare, a mescolare nel grosso calderone del neofolk degli anni 90 e andiamo appunto a sentirci questi Nature and Organization. Nature and Organization con Michael Cashmore, un progetto che ebbe vita breve, durò l'arco di 2 album. E questo di questa sera è proprio del 1994, si chiamava Beauty Raps, The Blood of Solitude. Punto di partenza al neofolk, ma poi nell'album ci sono degli sviluppi e delle aperture musicali assai diverse, un po' tra la sperimentazione e a tratti anche il noise. Per cui My Black Diary, Beauty Destroyed, Obsession, Flowers as a Torture. Resonance. Abbiamo iniziato con Nature and Organization, con questo Beauty Raps, The Blood of Solitude, un interessantissimo album vario, come si è potuto anche apprezzare da queste tre tracce, My Black Diary. E non è passata inosservata ovviamente la voce di Douglas Pearce di Death in June. This for an Easter Girl, anzi no, Beauty Destroyed. E Obsession Flowers, es Torture, che sta andando sotto la mia voce. Parecchi fiori all'occhiello dal punto di vista degli ospiti per quanto riguarda Michael Cashmore. Oltre al già citato Douglas Pearce, troviamo Steven Stapleton, The Nurse with Wound, anche lui alla chitarra, David Tibbet alla voce di Current 93. Altra bella voce è quella di Rose McDowell, la voce femminile. Il violino di Sally Wood, tutti i musicisti che hanno collaborato un po' qui, un po' là, in tutti i dischi degli artisti summenzionati. Purtroppo soltanto praticamente due lavori per Nature and Organization, questo del 94. E un successivo che si chiamava Death in a Snow Leopard Winter, un album totalmente suonato solo con un pianoforte, molto bello comunque, che sentiremo nelle settimane successive. Le uniche tracce, diciamo, più recenti, ma tra virgolette, un album dal nome Universal Death Stream, che in realtà è un live addirittura del 1985, perché effettivamente poi il progetto nacque intorno alla metà degli anni 80 con una cassetta Third Terminal Position, per poi tacere per 8 lunghi anni. Attitudine neofolk che ritroviamo anche nell'ultimo lavoro dei Nevus, e torniamo ai giorni nostri, di Lod James, si chiama Curses, album già detto in passato, che esce per la nostrana Old Europa Cafè, che dei Nevus ha fatto uscire anche altri dischi nel passato. Ci ascoltiamo le tracce che lo vanno a concludere, Odor e Surface.